Non, là, c'est trop dur. Non ? On passe par la rue de la télévision. D'accord. Rien que des sons. Que des sons. Des sons. Des sons. Rien que des sons. Donc des sons tout nus. Vous le comptez? La realité, la realità. Antonio, Mimì! Ce lo carri! Dani! Ce lo carri! Io non l'hai detto che voglio farlo io! Ma detto te! Ma tu di caricare, Sì, sai, sempre bugie. Peut-être parce que c'est l'Italie. C'est comme me, non ho vita che solo. La vita c'era. Perché quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Oh. Vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso. Ma non ho detto, ho quattro, se in caso devo andare. Ora arrivo, ora arrivo. Du vin. Bonjour. Bonjour. Vino. Vous le goûtez? Non, non, ben. Trop caldo. Sì. Ah, sì, non, perché se li tagli. Non conserva? Questi non ce la conservano. Ah, sì. Sì. Grazie, buongiorno. E chi? J'ai crié les sujets. Salut. Piazza Rocchetta. Bonjour. Buongiorno. Parla un po'. Non parla. Come ti chiami? Patrizia. Patrizia. E quanto anni? Sei. Passeggiata. Bravo. Buongiorno. Oh, po' di voiture. No. Ma dove dovete andare? Scusate. Ah, l'avete vista la cattedrale? Sì, sì, grazie. È bella, è bella. Sì, le vere bambine vengono malate. Ah sì. Ciao. Buongiorno. Io credo che c'è tanto. Par là. Devo andare al suo pezzo lì! Billy!